Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, benvenuti sulle nostre frequenze, questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno della programmazione serale, guarda caso chiamata Blu Radio Sera. Una buona serata da parte di Flavio Vilato e da Maurizio Calzavara che con me conduce questo martedì sera. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora subito dobbiamo dare una brutta notizia ai nostri ascoltatori, sono ritornate le zanzare. Assolutamente sì, abbiamo cominciato a vederle dai nostri lunotti, spazzandole via con i tergi cristalli, ancora non sono arrivate all'interno delle automobili, però voglio dire è un pericolo, quindi via di zampironi, di autan, di ogni altra crema speciale per difendersi un po' prima del tempo, oserei dire. Diciamo proprio di sì, la primavera è scoppiata, ma è scoppiato anche il caldo. Ecco, assolutamente, assolutamente sì, quindi un abito assolutamente inadeguato, quello mio, quindi camicia con le maniche lunghe, dovevo venire qua in canottiera a braghette corte, a quanto pare. Vabbè, ma non si fa così, anche se in radio non ci si vede, ma si sente, e si sente quando si sta a proprio agio. In questo caso, perché anche in questo martedì sera, Maurizio, c'è la musica dal vivo. Certamente, da Milano, direttamente da Milano, ma la musica dal vivo non ha confini, vero Emanuele? È vero, ecco, è vero, salutiamo sì. Emanuele De Francesco, buonasera Emanuele. Buonasera, buonasera. Allora, musica che non ha confini, la nostra è Blu Radio Veneto, ma ultimamente stiamo sconfinando, lo facciamo già da tempo, a dire il vero, in giro per le varie regioni d'Italia e non solo d'Italia, nel cercare sempre nuovi talenti, ed in questo dobbiamo ringraziare anche Alberto Prisco, che è un po' il coordinatore e l'organizzatore di queste serate, che ti ha scovato da qualche parte. Io ringrazio Alberto. Ecco, e ha detto e questo. Penso che posso fare un ringraziamento. Penso sì. Che il contatto con Alberto sia Antonella Lavini, che si occupa un po' del mio ufficio stampa piccolino, e volevo ringraziare Antonella anche, grazie Antonella e grazie Alberto, grazie. Benissimo, allora abbiamo salutato già Alberto e Antonella all'inizio trasmissione, ricordiamo che comunque Blu Radio Veneto, oltre che con le frequenze tradizionali, si muove anche con le frequenze internet, ovvero lo streaming audio. Quindi se volete collegarvi al nostro sito www.bluradioveneto.it e cliccare sulla pagina riservata di Emanuele De Francesco, potrete ascoltare la trasmissione, e poi è attivo anche la nostra pagina Facebook, quindi Blu Radio Veneto Rock Wave. Allora Emanuele, volevo cominciare dicendo come va? Beh, bene, a parte le zanzare, no, non mi ero accorto delle zanzare, comunque vabbè, speriamo non sia una visaglia di estate troppo violenta, dai, perché poi no, va bene, comunque grazie mille per avermi ospitato, io vi ringrazio già in anticipo. Ecco, già mi aspettavo la risposta a gonfie vele, mi riferisco in particolar modo va sempre a gonfie vele, assolutamente sì. Perché poi tu avremo modo di scoprirlo durante la trasmissione. Dici un po' così ironicamente come va? A gonfie vele, sì, no? Sì, quindi sì, per prendere in giro un po' No, non mi piace prendere in giro, è un analizzare un po', meno, mi sembra ogni tanto, no? C'è questa, io lo chiamo un po' la facciata, no? Sì. Come va? Ma bene, bene, in realtà magari non va bene niente. Però si dice sempre va tutto bene. Dispiace dire va male. Dispiace perché dico perché non posso dire ma non va molto bene. Oggi ecco. Oggi c'ho qualcosa di traverso, non va bene. Cioè non... Di solito si comincia col sì, va bene, e dopo però, si va bene, ma si buttano fuori invece, un sacco di problemi. No, ecco, partiva da questa cosa. Certo. Si allargava, tu hai preso questo brano. Sì. Che poi si allarga un po', ho voluto parlare un po' della storia di noi musicisti che ti guardano come un alieno, come qualcosa che viene, degli artisti in generale, pittura, letteratura, qualsiasi cosa, ti vedono come qualcuno venuto da un altro pianeta, ma vai a lavorare. Sì, anche perché la gente si domanda sempre più frequentemente e si chiede ma come fa l'artista a guadagnarsi da vivere, l'artista, no? Non guadagna. E se lo domanda anche l'artista in certe situazioni. È vero. Guardi, l'artista cerca di guadagnarsi da vivere, però ecco, poi chiaramente poi si ritrova a fare i conti giustamente anche con la realtà. Però ecco, questo era un voler prendere in esame questo aspetto che mi sembra un po' lo specchio un po' della cultura, poi cultura sembra voler sempre fare un parolone, in realtà della società attuale, dove si va tutti di corsa, no? Cioè, sì, siamo tutti presi dall'andare, correre, telefonini a destra, manetta, sempre con questi auricolari, a me fanno morire quelli in macchina, si può parlare liberamente, sì, mette, quindi, certo, no, mi fa morire quelli in macchina con, vedo queste, cioè, con l'auricolare da soli che parlano, dico è pazzesco, cioè, non che poi è anche, cioè, magari c'è gente che lo fa anche perché ha bisogno di farlo, perché sì, sì, certo, è che, però mi fa riflettere questa cosa. Io sono molto bradipo, cioè, queste cose molto slow food, ecco, usiamo una parola, no. E quindi questo era un modo di, non è prendere in giro, perché non mi piace prendere in giro, era una cosa un po' ironica, il fatto di raccontare che guardate che comunque chi fa musica non è che non fa niente, cioè, anzi a volte è un mondo suo che è anche un mondo difficile, come tutti gli artisti in generale. Allora Emanuele De Francesco è venuto a presentarci il suo nuovo lavoro, che si intitola Inquietamente, sì, che però si dice in questa maniera, così staccando, sì, le tre parole che formano il tutto, però c'è anche un'altra maniera di leggerla, forse ne hai dato anche un'anticipazione adesso nelle tue parole, Inquietamente. Sì, l'ho creato apposta, questo nome Inquietamente, che può essere letto appunto in entrambi i modi, no? Quando uno lo percepisce, Inquietamente come qualcosa di, che poi il termine inquietante è forte, però che ti fa riflettere, o comunque può essere la società per molte cose che sentiamo, purtroppo ormai la rete ci fa vedere delle cose che prima non vedevamo, che esistevano sicuramente magari anche prima, però tutto viene amplificato e di conseguenza ne veniamo a conoscenza a volte con, almeno personalmente, con grande sgomento e non so, proprio un senso di fronte a alcune immagini di raccapriccio, di voglia di fare qualcosa e poi non sai che cosa fare effettivamente, tranne prendere coscienza di questa realtà. E poi invece l'altro lato da cui si può leggere è Inquietamente, proprio, cioè, quindi ok, rilassati un attimo, prendila con calma, cerca di guardare anche dentro di tre e ritrova. Ci sono dei valori in ognuno di noi, c'è un proprio vissuto, una propria realtà, un proprio io, un proprio ego che va amplificato, non in maniera, attenzione, non super ego, cose del genere, va coltivato, ecco, quindi giusto spazio tra le proprie necessità e quelle che impone giustamente anche per certi versi, per il fatto che la società insomma ti richiede oneri e doveri, quindi è anche giusto, tanti oneri e pochi onori, come si dice, sì, ok, però ecco, cioè, quindi trovare il giusto compromesso insomma, senza tralasciare troppo di sé, perché secondo me è la cosa più sbagliata che ci possa essere, ecco. Qualcuno ha scritto che questo disco è una sorta di mappa geografica di tuoi sentimenti, sì, perché racconta un po' delle cose che chiaramente ho visto io, ho vissuto io, ho filtrato attraverso le mie esperienze, e la cosa che mi piace è che molto spesso la gente si identifica in queste cose e quindi ecco, mappa di, sì, mi piace la cosa della mappa geografica dei sentimenti, perché proprio va dal, diciamo, dal desiderio di amore, di abbandono che in ognuno di noi, perché è così, cioè è un po' parte dell'animo umano, certamente, come purtroppo ecco delle cose che invece ti danno, a me personalmente, fastidio, ad altri magari meno, o altri danno fastidio, altre cose che a me non danno fastidio, e, oppure ti fanno riflettere e pensare, per cui ci sono le storie d'amore, ci sono i desideri di sognare, i desideri di raggiungere i propri traguardi che uno giustamente si pone, e poi soprattutto la realtà. Allora, questo è il tuo traguardo, questo Inquietamente, diciamo che può essere considerato traguardo, una partenza, vedendolo da un punto di vista filosofico, in tutte e due le cose, come Inquietamente e Inquietamente, sì. E allora cominciamo a sgranellare questa tua inquietudine, questa okay, nostra inquietudine nel voler ascoltare i pezzi del tuo nuovo lavoro, quindi cominciamo subito con il presentare L'Aquilone, poi torniamo a commentarlo insieme a Emanuele De Francesco e a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. piacerebbe prenderti mentre corro in volo, indifferente al vento, alle parole contro mano, perché sai mi basta poco, un po' di vino tra le labbra, per ricominciare da capo, ad appoggiarmi alle tue braccia. Io non ho una direzione, seguo soltanto le parole, che a volte vanno in giro sole e molto spesso fanno male, però sai mi basta poco, un filo rosso tra i capelli, ritrovare ancora il sentiero dei tuoi passi, grandi come i miei difetti. Sarà che tutto mi sembra assai strano, sarà che il giorno lo confondo con il cielo, rimane il fatto che mi sento rapire da questa voglia di volare oltre le nuvole. Forse non ha senso, ho imparato ad ascoltare il rumore del silenzio quando il mio cuore è chiuso a chiave. Allora tutto sembra un gioco, una sottile tentazione, e nei miei sogni sono un drago e le tue mani un aquilone. Così mi piacerebbe prenderti mentre cado in volo, indifferente al mondo, al suo destino contro mano, perché sai mi basta poco, un filo rosso tra i capelli, per innamorarmi ancora dei tuoi occhi e dei tuoi passi, grandi come i miei difetti. Sarà che tutto mi sembra un po' strano, sarà che il giorno mi confondo con il cielo, rimane il fatto che mi sento rapire da questa voglia di volare oltre le nuvole. E adesso che mi guardi sembra quasi che mi ascolti e non pensi che sia una bugia dico che vorrei portarti via oltre le nuvole, oltre le nuvole, oltre le nuvole, oltre le nuvole, oltre le nuvole, oltre le nuvole, oltre le nuvole. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il pezzo che abbiamo ascoltato è L'Aquilone, tratto dal Inquietamente. Emanuele De Francesco è qui con noi per presentarci l'album, per farci ascoltare anche qualche bella canzone in versione live, visto che si è portato la sua bella chitarra. Ancora buonasera Emanuele. Buonasera, e grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, L'Aquilone, sì. L'Aquilone è L'Aquilone vuole comunicare con la terra e dire io voglio portarti via, voglio farti provare nuove emozioni. Com'è che si comporta questo aquilone? L'aquilone è un po' l'emblema di ogni bambino, penso, no? Di vedere questa cosa questa figura stagliata nel cielo che vola e dà un senso di libertà, almeno a me dà questo senso incredibile di libertà, e da qui è nata questa canzone che parla appunto della voglia di essere in fondo liberi. Certo. Liberi di sognare, di dialogare fuori da ogni costrizione, fuori da ogni imposizione, anche se poi c'è quel maledetto filo, chiamiamolo così, che ti riporta alla realtà. Beh, ma quello è in realtà quel filo rosso tra i capelli ricorda molto anche, è un po' un, l'ho visto un po' come un'ancora di salvezza, diciamo, nel senso c'è sempre, io penso che l'amore nel termine più spirituale possibile sia veramente una forma di libertà assoluta, quindi quel filo rosso tra i capelli è un po' il ritornare, avere un punto di riferimento che poi ti riporta indietro, che ti fa capire ok, comunque va bene, no? Non la gonfio fede, va bene, nel senso che c'è veramente un qualcosa dentro di noi che ti fa sentire a posto e ti fa volare in alto, come può essere l'aquilone. Questa è una canzone di assoluta libertà e di amore, può essere letta in 2000 modi. Io non ci ho molto pensato quando l'ho scritta, avevo in mente questa immagine dell'aquilone e è nato tutto abbastanza così, e mi fa piacere che possa piacere, però ripeto, il filo rosso che riporta ai tuoi capelli mi ha dato diciamo una sorta di, ripeto, di ancora a qualcosa di terreno, ma terreno in questo caso comunque con cui comunicare. A noi è piaciuto molto musicalmente il pezzo, che abbiamo subito inserita come pezzo trainante. Grazie. Dell'album, perché all'inizio era un inizio molto folcheggiante, sì. Allora mi è venuto in mente Nick Drake, un tuo grande idolo, poi chiaramente i discorsi cambiano perché prende posizione, prende forza, e dobbiamo citare, poi citeremo quel gruppo, quel grande gruppo che ti sostiene nel disco. Un pezzo molto bello che ci ha subito meravigliato in senso positivo, e abbiamo sentito anche altri pezzi, però questo ci ha particolarmente colpito. Noi della redazione abbiamo deciso di dare un la al disco con questo pezzo. Grazie, va bene. Anche se non dobbiamo togliere nulla agli altri 9 pezzi, avremo la fortuna di ascoltarli tutti in questa serata, un po' dal vivo, un po' da disco, e ce ne sono degli altri che meritano veramente, compreso anche quel Niente per Niente, che è un po' quello che traina l'album, la canzone, diciamo, più facile al primo ascolto, anche se racchiude anche questo Niente per Niente, un testo molto, molto complesso da gestire. Sì, anche qua è un discorso, questo è un discorso molto sulla realtà attuale, quindi ti dirò la verità, io non penso mai quando scrivo a cosa può capitare, nel senso, mi rifaccio a delle immagini che mi colpiscono, dei modi di dire, vedo dei fotogrammi, cerco di così scavarci dentro, tirare fuori qualcosa. Questa è una canzone che in effetti parla molto Niente per Niente, vabbè, lo dice anche il titolo. È il fatto un po' del penso sia un po' la fotografia della nostra, per molti versi, della nostra società, il fatto che comunque sì, ma cosa ti danno in cambio? non va bene, non è sempre così, perché devono darmi in cambio qualcosa? Cioè, certo. Sempre datemi in cambio la possibilità di magari di essere me stesso, di dire quello che penso, o di non far finta di niente quando vedo qualcosa che non mi va bene. Cioè, ormai c'è un livello di indifferenza, gente semafori che litiga cerchi di intervenire, no, lascia stare, non sai mai. Sì, perché non sai mai cosa arrivi fuori, no? Questo sia veramente assurdo. Cioè, in certo senso siamo un po' tutti dei conigli, no? In questo caso. Anche a ragione a volte, sì, perché veramente poi salta fuori il pazzo che ti risponde con una pistola. Soprattutto quella, l'ultimo. No, ecco, queste sono delle cose che mi. Ecco, la cosa che mi colpisce adesso. È un paragone che faccio sempre, ma è una cosa che mi ha sempre colpito. Penso che tutti noi abitiamo in condominio, non lo so se qualcuno abita magari in qualche villetta o comunque chi abita in condominio, la cosa che mi colpisce, fai fatica a salutare le persone, è una cosa pazzesca. È vero questo. Ciao, come stai? Com'è? Sì, bene. E guarda, cioè, poi l'ascensore è piccolo, non è che puoi guardare a molte parti, no? perché? Cioè, dico, non ci sono delle barriere che ci siamo creati, probabilmente perché per molte cose, per molte ragioni. No, poi non voglio passare neanche per uno che predica, perché in realtà ci sono dentro anch'io mi comporto così. Certo. Quindi il primo ad avere sentore di queste cose sono io, cioè mi rendo ed conto. È per quello che le scrivi. Mi chiedo, ma perché? Sì. Cioè, non esiste sta cosa, cioè, calmiamoci un attimo. Allora stravolgiamo un attimo la scaletta, visto che abbiamo parlato di niente per niente, direi di munirci di chitarra, yes, per farla ascoltare anche dal vivo, poi naturalmente gli ascoltatori che vorranno ascoltarla anche da disco, diremo più tardi come fare per entrare in possesso del disco di Emanuele De Francesco. Quindi ascoltiamo questa Niente per Niente con voce e chitarra. Vai Emanuele. Guarda là fuori, quanta gente in festa, chi si nasconde di piazza in piazza per parlare di tutto che è meglio di niente. Per schiarirsi la voce e svagare la mente. Chi ride, chi scherza e chi tace acconsente. Ma nessuno che fa niente per niente. E ognuno corre sul suo cammino, dimenticandosi chi tu sia. E ognuno inciampa sul suo destino. Va tutto bene e così sia. Ma intanto il tempo corre veloce e come un niente nel niente ti porta via. Si odon le grida, qualcuno si affaccia. Nessuno ricorda più esattamente il volto preciso, sono spiacente. Non è giusto fermarsi, tantomeno immischiarsi. Da che mondo son cose figlie di tutti i tempi. E ognuno inciampa sul suo destino e accetta tutto per sentito dire. E ci deve essere una ragione, niente semplice come appare. Una coscienza carta di giornale, da stracciare e esibire quando conviene. Perché niente per niente non c'è niente di male. Niente per niente non c'è niente da fare. Niente per niente. Ascoltalo bene, quell'odore di morte. Bambini soldato che giocano a carte. C'è chi guarda e fa finta di non vedere. E chi gioca contento con il suo cellulare. E ognuno corre sul suo cammino, dimenticandosi chi tu sia. E ognuno inciampa sul suo destino. Va tutto bene e così sia. Ma intanto il tempo corre veloce ed è giusto che ognuno. Ed è giusto che ognuno porti la propria croce. Perché niente per niente non c'è niente di strano. niente per niente, non c'è niente di male. Niente per niente, non ti preoccupare, perché niente per niente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo con Emanuele De Francesco per la presentazione del suo CD. Si intitola Inquietamente, il brano che ci siamo ascoltati, chitarra e voce, quindi versione acustica e live soprattutto. Niente è per niente, abbiamo anche avuto modo di spiegare il perché del testo e il perché di Niente è per niente. Un testo che ci fa bella compagnia, nel senso che è piacevole da ascoltare la melodia, però è molto forte il messaggio che vuole dare Emanuele, anche se tu Emanuele dici ma non ci penso, in realtà qualcosa di forte lo vuoi trasmettere e ci stai riuscendo bene. Uno molto spesso ti vengono delle cose, delle percezioni o comunque dei sentimenti di getto, no? delle reazioni. E questo chiaramente nasce da molte cose che vedi in giro. Prima facevo l'esempio della gente che critica i semafori, ma vedo anche maltrattare delle persone per strada. E il fatto che, ecco, restiamo lì. C'è un verso che mi piace in particolare, quando dice che nessuno, praticamente qualcuno vede magari, però non si intromette, proprio perché c'è questa paura. Ma è una paura che avverto anch'io. Attenzione, non è che io sono un supereroe Nembo Kid, che in realtà viviamo in questa brutta situazione. È l'unica, quindi mi dispiace, perché è brutto soprattutto poi avere dei figli. No, è brutto avere dei figli, nel senso è bello avere dei figli, ma è brutto cercare di gestirli in questa situazione in cui si va sempre di corsa e ci sono queste cose che sfuggono, che vogliamo far fuggire, che forse è peggio. E di conseguenza, ecco, è nata questa riflessione per immagini. Io vado molto per immagini ogni tanto, però. A proposito di immagini, Emanuele, c'è la tua copertina, sì, che è veramente da buon gustai, nel senso che hai un disegno davvero particolare. Poi magari daremo anche delle indicazioni ai nostri ascoltatori per vedere e commentare pure loro la copertina. Quindi c'è una base da dove parte una casa e lascia giù un corpo umano, in questo caso molto di alieno in questa figura. Diciamo che tu calza a pennello. Posso ringraziare l'autore di questo, certo, che è un mio carissimo amico ed è un grandissimo pittore e scultore. Si chiama Matteo Murelli ed è un'opera sua che lui mi ha prestato, mi ha regalato, e io lo ringrazio veramente perché è bellissimo. Tra l'altro, poi visto a dimensioni un po' più grandi, fa veramente impressione. A volte è un disegno, però mi dava proprio l'idea, ecco, appunto, di come a volte sono io, cioè, quindi molto preso dai miei pensieri. È chiaro che poi cerco di non farmi influenzare più di tanto, perché poi sembra che siamo, che in realtà no, cioè fai funzionare solo un po' a volte mi accorgo di avere un po' il cervello preso da molte cose, però. Anche se molti dicono che stiamo utilizzando solamente la decima parte delle nostre potenzialità. Secondo me è vero, anche per il discorso che ti dicevo prima, che abbiamo poco tempo per coltivare le altre. Il tempo dobbiamo ricavarcelo da soli. Tra l'altro, ieri leggevo una cosa aberrante, scusatemi il termine, passate, che mi sembra un italiano su tre, tre, non legge un libro. Questo fa un po' riflettere, nel senso. Non è una bella cosa, ma non perché, probabilmente quell'italiano lì non ha neanche il tempo di leggere, attenzione, perché poi ci dimentichiamo di quelli che lavorano veramente 12-13 ore al giorno. Certo. Però ecco, trovo che ci sia una svalutazione dell'arte in generale, una svalutazione, è comunque un così purtroppo diciamo, si va aggiungiamo... di fretta, qualcuno non ha tempo di soffermarsi su queste cose ed è quindi di conseguenza cioè salva salvabile. Aggiungiamo anche a libri a tempo libero anche i dischi, dischi che non sono più ascoltati con il dovuto interesse, e si parla sempre di quel mordi e fuggi dove vince solo la canzone commerciale, solo la canzone che riesci a canticchiare nei 10 minuti, quarto d'ora o un'ora per recarti al lavoro o in ufficio come sottofondo, però come sottofondo non riesci a cogliere le particolarità della canzone. Ma sì, io penso che comunque siano cose che sono sempre state, adesso al di là di tutto, ripeto, forse la rete ha questo vantaggio che amplifica le cose e di conseguenza ci fa notare delle cose che probabilmente sono sempre esistite. Adesso chiaramente le viviamo purtroppo molto di più sulla nostra pelle per tutti i discorsi che ci sono, sentiamo veramente, ecco, la cosiddetta crisi economica ci fa un po' più stringere, diciamo, i cordoni della borsa e anche quelli del tempo, secondo me. Ma non hai un valore, non hai portato i cordoni della borsa musicalmente, perché hai curato molto l'aspetto musicale, anche se questo live di alcuni momenti fa giustamente Flavio parlava di melodia, ma era una melodia arrabbiata in questo live, molto arrabbiata, scheletrica ma molto arrabbiata, perché doveva supportare il testo, abbiamo già parlato un testo forte. Sì, beh, io guarda, sì, in effetti questo tipo di approccio mi è un approccio che mi piace molto. Arrabbiato non lo so, nel senso, mi piace molto l'approccio. Senso positivo, arrabbiato. Sì, no, infatti, da Foxing arrabbiato, possiamo dire quello. Io provengo molto dal rock. Esattamente, tu sei Springsteeno da parecchio. Questo mi hai fatto adesso. Vabbè, io posso anche andarmene. E chi già viene sempre fuori. Qua stiamo parlando veramente di sì, però mi piace veramente l'approccio che queste persone, sì, io sì, nel senso non cerco chiaramente di imitare questi personaggi, però sì, l'approccio è molto, io sono dell'idea sempre che la canzone parte chitarra e voce, pianoforte e voce, e se la canzone è arrabbiata o comunque rimane comunque arrabbiata, cioè nel senso, poi tutto quello che c'è intorno chiaramente sono arrangiamenti, certo però certo. La canzone sta in piedi da sola, e in effetti sì, questa era una canzone abbastanza che deve colpire. Ma non nel senso negativo, ci deve fare riflettere, come ha detto giustamente Flavio. Molto spesso deve fare, mi rendo conto che sono dei miei sfoghi, no? Però ce l'avevo un po' col mondo intero, quindi ho tirato fuori di tutto. No, di più. Tempo fa, molti anni fa, su Ciao 2001, che adesso è scomparso come giornale, c'è una rubrica curata da Edoardo Bennato. Si chiamava Fermate il mondo, voglio scendere. Quindi, ma io te la ricordo. Tra l'altro, Bennato è un altro personaggio. Grande, è un grande personaggio. Bene, ma parliamo del grande personaggio qui presente, Emanuele De Francesco, ancora inquietamente il suo ultimo lavoro, il suo CD molto bello da ascoltare, sono 9 tracce veramente ben curate. Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo da disco, questa volta ascoltiamo A volte. Ok, poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Sono passati un bel po' di anni. Tempi della scuola, sono passati un bel po' di anni, però io non me ne accorgo, sono sempre quello che porta a spasso i suoi pensieri, le sue malinconie, a volte corro, a volte inciampo, a volte mi vado stretto, a volte appoggio la testa al muro e poi piango in silenzio. A volte il cielo non ha colori e allora gioco con i miei dolori. A volte resta solo il silenzio, a volte invece no. E se bastasse volte sembra soltanto un gioco, a volte, e chi lo sa. A volte grido, a volte impreco, a volte resto zitto. A volte resto a guardare il cielo e mi domando cosa cerco. A volte il sole non ha più veli e resto immobile tra i suoi colori. A volte basta solo un momento, a volte invece no. Sembra soltanto un gioco, a volte, e chi lo sa. A volte resta solo il silenzio, a volte, invece no. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora una buona serata ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Siamo sempre io, Flavio Bilato, con Maurizio Calzavara a condurre la trasmissione del martedì sera. In particolare questa è quella del martedì 27 marzo 2012. Insieme a noi c'è Emanuele De Francesco. Abbiamo ascoltato un altro pezzo dal suo CD che si intitola Inquietamente, e questo era A volte. A volte una dimensione molto cantautorale, molto delicata nella presentazione di queste A volte. Guarda, questo è un brano a cui io sono molto legato, mi piace molto perché è proprio è un mio modo di vedere le cose, di raccontare il tempo, cioè il tempo che mi ha legato alla musica assieme a tante cose che ho vissuto. E infatti sono passati un po' di anni dai tempi della scuola e poi sono sempre quello che porta a spasso i suoi pensieri e le sue malinconie, che non penso ci sia niente di cui vergognarsi di portare a spasso le malinconie o di a volte pensare, no? A quello, certo, quello che si era, che si è diventato. Io ricordo veramente questi anni soprattutto del liceo, sono stati anni per me veramente incredibili dal punto di vista formativo a livello scolastico, ma soprattutto dell'apprendimento umano, con diciamo a livello di amicizie, a livello di rapporti, a livello di conoscenze anche musicali. È lì che un po' ho cominciato un po' a fare iniziare a scrivere e poi iniziare a suonare, no? Quindi a approcciarmi un po' veramente un po' più fisicamente alla musica, e avevo questo mondo, un ricordo fantastico, e questa canzone quindi è nata un po' da questo ricordo qua. Nell'agenda tutto delle cose da fare c'erano anche i tuoi versi, allora? Ma io l'ho sempre, sì, io sempre, è una cosa che ho sempre fatto, quella di scrivere, ma proprio anche dei pensieri, a volte li annoti lì e infatti devo ogni tanto ho dei cestoni di roba, però non mi azzardo mai a buttar via, il brutto è quello. Ho provato a prendere delle perché sempre col discorso del tempo, una volta è poco tempo, allora ti viene in mente qualcosa, cosa faccio? La segno e poi dico tanto vedo, dopo ci torno sopra. Quando poi ci torni sopra la rielabori, no? Dici ah che bello, adesso sono qua, mi rimetto lì. Poi mi è capitato una volta, cosa ho fatto? Pigliavo quello vecchio e lo buttavo via. Un giorno mi sono accorto, avevo questo foglio nuovo su cui dicevo adesso finalmente mi metto qua tranquillo il mio tempo, mi metto qua, lavoro su questa cosa, e scrivo questa canzone, scrivo questo testo, e c'era qualcosa che non mi, mi piaceva molto, no? Però fammi andare a vedere cosa avevo scritto, perché avevo il foglio vecchio e quello vecchio era molto più bello di quello nuovo, perché l'ha scritto di getto, no? E allora ho detto no, non ci siamo, allora non mi azzardo a buttare via niente. Una cosa pazzesca, ho paura. Suonava assolutamente bene in quel caso, suonava molto più spontaneo. Suonava spontaneo come il pianoforte che era presente in questo pezzo. Suonava, sì era Macchiarulo o Battista, questa era era Macchiarulo, Davide Macchiarulo. Mm. Comunque gli arrangiamenti, e qua c'erano anche tutte e due, mi sa che hanno sotto questo. Gli archi così erano di Lele sui synth. Citiamoli i musicisti. Sì, citiamo i musicisti, visto che con ci siamo. Con molto piacere. Mm. Allora, questo disco, no, innanzitutto la produzione artistica è stata di Lele Battista, che per me rimane veramente, oltre che amico, tutto un grandissimo artista, veramente, fa anche rima, ma è un po' la verità, è, è veramente un personaggio grande. Cioè, lingua italiana di un certo tipo, sì, ma... non si può dimenticare Lele Battista della sintesi. Sì, sì, e poi comunque trovo che lui sia veramente, anche a livello di arrangiamento, sia un grandissimo produttore. Poi c'è stato Giorgio Mastrocola alle chitarre, che ha collaborato sia con Lele, poi con Battiato, con Pezzali recentemente, con Morgan anche lui, Luca Scansai, anche insomma, anche sì, penso che io, che sono un po' un caprone alla chitarra, si sentono gli arrangiamenti di queste persone. Mm. Ecco, e anche Giorgio, insomma, un altro personaggio di spessore, direi. Poi al basso c'è stato Luca Scansani, tra l'altro un mio compagno di medie, alle medie, ci siamo conosciuti, continuiamo ancora a suonare insieme, molto spesso ai miei live suoniamo insieme, questo veramente è un fenomeno, è veramente una cosa pazzesca, io quando lo vedo così mi emoziono, perché è un veramente un session man incredibile, e quindi anche lui si è prestato a fare gli arrangiamenti da parte di basso, lui ha collaborato con Rondò Veneziano, con Bennato, perché ha suonato con Bennato, con Zucchero, e penso che comunque queste cose si sentano. Poi c'è Davide Macchiarulo, che è un grandissimo suonatore in orchestra, e tra le altre cose suona molto spesso nelle chiese. Lui ha questo, diciamo, lavoro per il quale è chiamato molte orchestre anche a livello ecclesiastico, ed è quindi sa aggiustarsi molto bene tra il pop e il rock e tutta la musica, diciamo. E alla batteria c'è stato Andrea Morsero, che ha suonato un po' di tutti, ha suonato percussioni, batterie, e tra l'altro ultimamente mi sembra che si occupi di DJ set, un altro personaggio molto eclettico oltre che batterista. Io sono veramente li ringrazio veramente tanto, perché penso che si possa sentire il lavoro fatto da queste persone a livello musicale, e li ringrazio, ecco, veramente. Allora ci ascoltiamo un altro pezzo da live questa volta. Sì, sì, un altro pezzo live, direi. Raccontami un sogno. Ok, raccontiamocelo questo Bene. Sogno. Eccolo qua, Emanuele De Francesco in diretta da Blu Radio Veneto. Ho cancellato i ricordi, sono solo una parentesi in balia del vento. Potresti fare di me ciò che vuoi, prendere e manipolarmi o ricacciarmi indietro. Cerchi impazzito senza ragione un vento discreto, mi riporta indietro. Ho combattuto l'inverno ebro di pensieri, ritrovandomi sconfitto. Ho calpestato strade sconosciute per sentirmi perso, senza una meta, senza un rimorso. Solo con il desiderio di sentirmi diverso. E non ricordo dove sono stato, chi ho baciato, amato. Semplicemente assente io, mi ritrovo a disagio. Adesso però tu raccontami un sogno. di questo che ho bisogno. I sassi che ho tirato non fanno più male, le parole che ho gridato non volano più, solo l'amore in fondo è un giusto fine. E adesso sono qui con i miei dubbi e i miei difetti e le certezze che io non voglio avere, ma ho cancellato i ricordi, sono solo una parentesi nel vento. Adesso però tu raccontami un sogno, raccontami un sogno, prometto che ti ascolto. E non mi importa se domani farà freddo o il sole non riscalderà, raccontami un sogno. Prometto che ti ascolto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che bello questo salottino, eh? Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera, ancora buona serata a tutti. Sono le 21:48 minuti primi, stiamo piacevolmente conversando con Emanuele De Francesco per conoscere di più delle sue canzoni, del suo album, si intitola Inquietamente. Ci siamo ascoltati in versione acustica questo Raccontami, raccontami un sogno, veramente fantastica. Ti viene voglia di parlare e di raccontare il tuo sogno di fronte a questo invito che fai? Ma penso che il Raccontami un sogno è un invito a raccontare i propri sogni, o comunque non facciamoci, come diceva Bennato, non farti cadere le braccia, no? E quindi Raccontami un sogno è proprio il voler non assolutamente regredire, o comunque non voler arrendersi. Ma poi arrendersi sembra che ci sia una lotta, in realtà no, basta, cioè, essere se stessi. Quindi tutti abbiamo bisogno di sogni, non vedo la grossa, diciamo, difficoltà da questo punto di vista. È che ce ne dimentichiamo, molto spesso ce ne dimentichiamo. Io non voglio dimenticarmene, non posso fare a meno di avere qualcuno che mi racconti dei sogni, di raccontarli io, di cercare di raccontarli. Questo brano in particolare racconta un po' il fatto che spesso ci perdiamo in periodi difficili, ma non è colpa nostra, succede, però il fatto magari di avere e cerchi di non so, a volte cerchi di cambiare o dici ho sbagliato tutto, no, non sbagliamo, secondo me non sbagliamo niente, ci sono dei percorsi, ci sono delle traiettorie, ci si finisce dentro e devi far tesoro di quello che impari e degli sbagli che fai. Sembra retorica, ma penso che sia una cosa molto semplice, e quindi di conseguenza da questo poi viene la voglia di raccontare dei sogni, perché tutti sono in grado di raccontare dei sogni e noi dobbiamo solo ascoltarli. Penso che ci manca questo tipo di approccio. Fabio, gli ha raccontato i sogni talmente forte Emanuele che era tutto sudato, perché un artista deve dare e sta dando, come anche i DJ o qui noi ci sudiamo, ma anche l'artista suda assolutamente. Sì, e racconta il sogno anche così, sudando, secondo me. E beh, comunque sì, questo sono molto springstiano. Sei molto springstiano su queste cose. Diciamo che qui a Blu Radio Veneto non si batte mai la brocca, nel senso non si teme mai il freddo, perché qui all'interno c'è il calore in tutti i sensi, no? Il calore umano, il calore delle canzoni e il calore del termosifone anche quando è spento. Soprattutto poi ci sono già le zanzare anche. Poi ci sono le zanzare, quindi, che determinano molto la stagione. Allora, abbiamo parlato di questa voglia di comunicare, soprattutto di questa voglia di scrivere. Nel 2004 l'hai fatta bella, no? Della serie hai raccolto le canzoni, le poesie dai tuoi cassetti e le hai rese un libro. Sì, ecco, poi ci vado molto piano con questi termini. Poesia è una cosa complicata. No, sì, comunque è un po' il discorso che facevo prima, cioè, ho tutto questo archivio, molto spesso non nascono delle canzoni, però rimangono dei racconti, rimangono delle percezioni, delle sensazioni che tu hai messo nero su bianco, no? E così ho avuto questa necessità, chiamiamola così, o questa voglia di fare un po' lo stato dell'arte di quello che ho fatto. Ho pubblicato questo libro che ho chiamato L'Eclissi di Luna, perché è una cosa che mi ha sempre affascinato, l'Eclissi di Luna. E, tra l'altro ci sono anche una raccolta anche di canzoni, ci sono poesie, no, poesie comunque a me piace chiamarle, diciamo, dei versi, ecco. E poi ci sono ho voluto, proprio per il motivo che ti dicevo prima, fare un po' il resoconto di quello che mi era piaciuto fare e così metterci dentro anche delle canzoni a cui ero particolarmente legato. Bene, quindi Maurizio, perdonami, no, volevo solamente presentare già agli ascoltatori come fare per entrare in possesso sia del CD di cui stiamo parlando, sia anche di questo libello che mi sembra alquanto interessante. Ma ecco, il CD è in vendita presso le piattaforme Fnac, Messaggerie Musicali, Mondadori, Store, queste, diciamo, piattaforme nei negozi di dischi. Adesso penso che comunque bisognerà ordinarlo, non ce ne sono tantissimi in giro. Oppure si può benissimo scrivere a me, alla casella che trovate sul mio sito internet. Per quanto riguarda il libro, ecco, questo occorre, era in vendita in alcune librerie, soprattutto dove abito io, ce n'è ancora forse, però si può richiedermelo volentieri, ecco. Ricordiamo anche il nome del tuo sito, così sì, ascoltatori. www.emanueledefrancesco.it. Hai fatto una specie di tributo a Celentano, hai cantato soli. Come è stato? Ma è stata un'esperienza molto molto bella. Sì, ho fatto questa cosa nel 2005, sì, dal vivo al Castello Sforzesco. È stato un tributo. E qua ho fatto un brano che si chiamava Soli, perché era un brano che io mi ricordavo quando ero piccolino. Mi hanno regalato, mi ricordo, questo 45 giri, mia mamma e mio papà, a me piaceva un sacco questa canzone. È inutile parlare, qui non vi aprirà nessuno. Allora, l'ho rivisitata un po' in chiave blues, sì, diciamo che è stata un'esperienza molto molto bella, mi ha permesso di entrare in contatto poi con altri personaggi, fatto molto volentieri, insomma. Bene, allora abbiamo un piccolo problema col microfono di Maurizio, comunque adesso torniamo ad ascoltare ancora una canzone da disco. In questo caso inseriamo la traccia numero 6. Anzi, perdonami, la traccia numero 7 in questo caso, o 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, la numero 6, che è Deserto in questo caso. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo sempre qui dai microfoni di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. processioni, belle intenzioni. Ho perso l'anima, gettata al vento per poter mangiare, per non morire. Dato che qui non mi aiuta nessuno, dato che qui sono rimasto da di ricchezze, di ideali, siamo tutti uguali. Ho perso l'anima mentre vagavo scalzo per le strade. Dimmi dove eri mentre la notte mi stringeva il cuore, perché sorridevi e ti voltavi, stringevi. Che qui mi hai lasciato da solo, dato che qui non mi aiuta nessuno, solo così in questo deserto. Ho perso l'anima, venduta al mondo alle sue processioni, belle. Ho perso l'anima, gettata al vento per poter mangiare, per non morire, mentre una mina mi strappava il cuore, perché sorridevi, stringevi mani e armavi navi. Guardami qui, mentre provo a giocare. Più di un milione e resto così, solo in questo deserto, in questo deserto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola Deserto, a cantarlo è Emanuele De Francesco, che è qui con noi per presentarci l'intero album che si intitola Inquietamente. Deserto, molto raffinata la composizione di un testo molto forte e che parla anche di realtà che molto spesso, quando uno le sente per televisione, diciamo cambia canale o fa finta di non sentirle proprio per non farsi male. Sì, purtroppo. No, ma a volte invece ci rimani male. Ci rimani male, e è un po' il discorso che facevamo prima. Tra l'altro, non ho volutamente c'è un'immagine molto forte, no? Che è quella del bambino, in effetti. Poi me ne sono reso conto dopo, nel senso, cioè, ero anche, è venuta fuori dopo questa. Mi sono reso conto che questa è un'immagine molto forte. Ma è una canzone che parla anche del fatto del. Del può essere benissimo anche clochard, cioè, mentre l'inverno mi stringeva il cuore. Perché, cioè, quindi. Questo senso un po' di indifferenza che dicevo prima, adesso non è che poi bisogna fare la morale o chissà che cosa, però sono situazioni che in realtà appunto a me personalmente feriscono parecchio e mi lasciano un po' così col magone, ecco, la parola giusta è magone, mi lasciano col magone, anche perché ti dirò una cosa, a me è capitato molto spesso di parlare un po', io ho questo forse un difetto, nel senso che... non so, o attiro io le persone come una calamita, o comunque talvolta vengono lì si attacca a parlare con delle persone che non conosci, no? Mi è capitato di parecchie volte, magari mentre aspetti l'autobus o sei fuori a portare la pattumiera, non lo so, queste persone ti raccontano qualcosa e tu inizi a parlare, perché non devo parlare, cioè non... Poi mi sono reso conto che queste persone ti raccontavano qualcosa che era pertinente al tuo stato d'animo, no? Cioè, non è che siamo degli alieni perché abitiamo in un palazzo, quello che abita nell'altro è per forza di cose un estraneo, ecco. Io mi piace dialogare, veramente, parlare, ascoltare con le persone. E poi mi dico, ma chi è quello lì? E che ne so io? Non lo so, cioè, ma non come il film, se ricordate quella scena del film di Lino Banfi, bellissima, quando c'era quello che arriva il prete Peppino e poi c'erano tutte i sottotitoli in arabo, quando si spiegava non si conoscevano praticamente. Ecco, non arriviamo a quei livelli lì, voglio dire, però io, a me piace molto, cioè magari trovi una persona, inizi a scambiare due parole e ti fermi a parlare, a parlare, e non so, poi però dici, ma chi era quello? Non so, cosa ci parli a fare? Scusa. Non so. Ma di solito la calamita, quella che dicevi tu, si forma tra simili, no? Ma non simili, non so, assoluti, no. Simili che in quel momento ma no, io penso che ci sia, condividono. Sì, può essere, però vuol dire, due parole si possono scambiare, non è certo. Che vuol dire, poi, cioè, due parole si possono scambiare con chiunque, cioè non è che... Sì, come dicono queste parti, tacca botone. Quindi per parlare, sì, naturalmente sì. Parlare vuol dire comunicare. E allora ricordiamo ancora una volta, siamo Blu Radio Veneto, le nostre sono le classiche frequenze in FM, ma non ci fermiamo qui, siamo presenti anche in streaming audio all'indirizzo bluradioveneto.it, cliccando sopra la notizia che riguarda Emanuele De Francesco. Tra altre cose, all'interno della nostra pagina su Facebook, quindi Blu Radio Veneto Rock Wave, tra pochi giorni sarà disponibile anche la registrazione di questa trasmissione, per chi se la fosse persa o per chi vuole tenerla nel proprio archivio personale, per chi vuole conoscere ancora qualcosa di più invece di Emanuela Di Francesco, oltre che naturalmente comprarsi il disco e anche il libretto, perché comincia ad essere una cosa che mi intrippa molto, anche sapere che ce ne sono poche copie in giro vuol dire che questa diventerà a casa mia, se volete chiamate sono lì e benissimo. E quindi ricordiamo ancora una volta il tuo sito internet, Emanuele. www.emanueledefrancesco.it. benissimo, quindi molto facile, nome e cognome, il punto it ci vuole alla fine, e quindi per accedere, per conoscere qualcosa di più oltre alla trasmissione che stiamo ascoltando. Sono adesso anch'io su Facebook. Benissimo. Sono già tuo amico. Sì, infatti. Benissimo, allora Facebook, che ha avvicinato un po' il mondo, e tramite Facebook, che per alcuni è un danno, per altri invece siamo sempre lì, insomma, dipende come usi le cose. Certo. Non è che la tecnologia purtroppo c'è, non è che possiamo far finta che non ci sia. Facebook, parlo dal punto di vista musicale, mi aiuta parecchio, nel senso che comunque vedo che la maggior parte delle richieste arriva tramite Facebook piuttosto che posta o altre cose. Non è che puoi, voglio dire, voltare le spalle a queste cose, devi, ecco, forse non farti ammorbare, ma a volte c'è, poi vabbè, chiaramente poi ci sono le malattie, no? Come c'è quello della slot machine, c'è, cioè, certo, la tecnologia, certo. Voglio dire, non è... però fa parte del gioco, ecco. E a proposito di questo, tu hai fatto un'intervista molto bella, qui parlavi dei mezzi, di nuovi mezzi per far sentire la musica, e finivi dicendo: però ho visto un ragazzino che è andato su una bancarella a cercare un disco dei Birds. Noi che abbiamo una certa età, io e Flavio, ci siamo subito alzati dalla sedia a cercare un disco dei Birds. È una cosa meravigliosa, è una cosa che mi ha emozionato in maniera incredibile, perché a me piace andare per queste bancarelle dell'usato, che ci, una volta ogni 15 giorni lì vicino dove abito io c'è sempre questa bancarella, un negozio di dischi, poi una bancarella di dischi in particolare, e vado sempre a spulciare un po'. Mi ricordo che c'era questo ragazzino con la zia e stava cercando un disco e stava contrattando sul prezzo che costava, che non costava poco, era anche un originale, per cui allora gli ho chiesto: ma ascolti i Birds? Sì, io ascolto solo questa musica qua, perché mio zio è un patito e mi ha trasmesso questa passione, e allora adesso praticamente mi aiuto quando può, mi dai i soldi per comprarmi questi dischi. Mi ha lasciato così, insomma, perché bello bellissimo sì. Sì, certo, anche perché ci si incontra sempre con gente, naturalmente tu li incontri, ci parli insieme in ascensore, li trovi sempre con questo MP3, no, con queste cuffiette. Anche io uso l'MP3 a volte, perché poi portarsi in giro il CD è anche un po' più, diciamo, sì, fastidioso a livello di ingombro, ecco. Però si voleva far vedere questo bambino che invece di portarsi dietro l'MP3 si porta dietro il vinile. Sì, è una cosa, ma mi ha lasciato proprio lì, insomma, quindi, ma bello, proprio era un appassionato, si vedeva che era. Allora, parlando di vinili, non si può non parlare di case discografiche. Qual è il tuo rapporto con le case discografiche? Penso un po' a quello che hanno tutti, nel senso, le case discografiche purtroppo sono delle aziende, e al giorno d'oggi le aziende hanno i problemi che hanno tutte le altre aziende, certo. Quindi devono vivere, e di conseguenza cercano di vendere quello che passa, quello che vende, e questo comporta diverse scelte a livello strategico decisionale. Non è un caso che adesso non ho tenuto il conto, mi sembra siano rimasti tre gruppi discografici, non sono quasi fusi tutti, per cui c'è stata venduta anche la EMI, quindi il catalogo dei Beatles di Pink Floyd, sì, quindi voglio dire, è un, purtroppo fa parte, non è che sono dei mecenati, ecco. Sono, se poi vogliamo discutere sul fatto delle scelte che potrebbero fare, usare di più, non lo so, non mi ci metto in queste cose. Purtroppo, ripeto, sono delle aziende, hanno dei budget, tanto entra, tanto deve uscire, viceversa. Questa forse è la cosa più che ho avuto modo di conoscere questi aspetti tramite gente che lavora proprio in questi ambienti. A livello dirigenziale ormai non c'è più il discografico, come poteva essere una volta Ricordi, questa gente qua. Ci sono dei veri e propri manager che magari di musica non ne sanno molto, però hanno il dovere e l'obbligo, sono pagati proprio per tenere in piedi questa azienda, quindi hanno un budget, fanno dei piani, e questo comporta delle scelte su chi vendere e chi no, e questo penso che poi sia, ecco, poi sotto l'occhio di tutti, no? Quello che dicevi tu prima, sì, che in automobile ascolti per forza di cose il motivo commerciale, ma è chiaro che se tu hai 10 minuti di tempo, non è che tipo nel traffico, non penso che ascolti io lo ascolto però beh, se ascolti di Andrea poi arrivi in ufficio che sei un po' sì, spallato no, adesso a parte gli scherzi, quindi penso che sia un po' l'evoluzione delle cose, non so, magari si tornerà un po' indietro, spero. Lo stato dell'arte è quello. Ci ascoltiamo un altro pezzo dal tuo disco, Emanuele, questa volta abbiamo il turno per A gonfie vele, allora lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Thank you. si muore dentro. Ogni volta che si cambia un po', dicono che non sono mai contento, che non so tenere un piede qua, uno là. Io non lo so qual è la giusta direzione. Sento che voglio solo andare là dove mi porta spesso il vento, per sentire l'effetto che fa. Respira. Solo un'illusione. Beato te che hai piedi bene in terra. Ci sono novità per quello che ne so, qui tutta gonfia e vele. Con i miei giorni è un po' così, i sogni sempre lì, piegati bene e bene. Ci sono novità per quello che ne so, qui deve tutto cominciare. Che buffo essere me, un giorno pigro, l'altro re, è un treno che non so fermare. Mi hanno detto che si brucia dentro ogni volta che si lega un po'. Radio Sera. Blu Radio Sera. E possiamo confermarlo anche noi, qui a Blu Radio Veneto va tutto a gonfie vele, come il titolo della canzone che ci siamo ascoltati, che è tratta dal lavoro di Emanuele De Francesco, che si intitola Inquietamente. E allora, tutto a gonfie vele, anche se, come si diceva all'inizio, c'era un po' di ironia, che è un po' la caratteristica di molte tue canzoni. Sì, perché era un po' il discorso che facevamo prima, no? Come va? Ah, bene, poi in realtà non è mai, a volte non è così. Sì. E allora c'è questa facciata, e poi mi ricollegavo a questo modo di dire, di fare, col fatto che quando dicevo cosa vuoi fare, voglio fare musicista, vuoi fare il musicista, ma trovati un lavoro, ma perché? Cioè, il musicista è un lavoro comunque, sì. Non è che uno, cioè, questa è una cosa che faceva anche imbestialire parecchio, no? Nel senso, è un lavoro, non è che uno che si guarda in giro gratta i pollici, cioè. Ma in Italia comunque, è considerato non un lavoro. Non penso, no, non lo so, magari anche sì. Sì, ma un po' meno, all'estero è considerato leggermente un lavoro. I musicisti vengono considerati, sì, meglio. Sì, per certi versi sì. Per certi versi, sì. Non sì. Tutto, però. Però sì, forse. Parliamo più, per un secondo della musica non tua, Emanuele. Sì. Dovendo scegliere dei cantanti, sia italiani che stranieri, che ti hanno un po', come dire, plasmato nella tua carriera musicale, perché immagino che anche tu sei figlio dei tempi, sei figlio delle canzoni che hai ascoltato, che ti hanno fatto ascoltare i tuoi genitori. Chi metteresti come tra i primi 5 personaggi, abbinati anche un disco, se possibile? Allora, bella questa domanda, fantastica. Allora, vabbè, solo 5, sì, dai, se no non finiamo più. Allora, sì. Ascolta. Sì. Allora, ascolta, 5, allora abbinati. Beh, allora, ascolta, allora, Led Zeppelin 2 è, secondo me è un capolavoro, è proprio fantastico. Lì c'è il rock proprio più sanguigno e tecnico, anche perché stiamo parlando di mostri. Di Bonzo, chiaramente. Quando Bonzo andava avanti. Insomma, quell'album lì in particolare, con Thank You alla fine, che era una cosa pazzesca. Cioè, comunque, vabbè. E poi posso sbagliare, no? Tranquillamente. Pesco un po', sì, nel mucchio. Anche musica classica. Anche musica classica. C'è i Koski, il Lago dei Cinque. Cioè, ragazzi, qua siamo. Sì. Poi Alice, a me ha sempre piaciuto, non so, Alice, le prime cose di Alice. Stiamo parlando di Carla Bissi, allora. Carla Bissi, esattamente. Il primo album, e poi Azimuth a me facevano impazzire. Sì, non so, era particolare, mi piaceva. Azimuth, che ha avuto la collaborazione con Battiato, sì, no? Sì, non so quello primo, anche forse, dove c'era. Treni, non mi ricordo. Di Tosor, no? No, forse dopo quello. Questo per parlare un po' della musica italiana, che però. Dovrei metterne, ti dico uno qualsiasi, De Gregori. Tanto De Gregori. Tanto De Gregori, perché secondo me, non lo so, un altro che facciamo ex, posso fare un ex equo, sì, che sì, guadagno sì. Tre sul, sì, sul terzo, sì. Ci metto allora De Gregori, Guccini, De André, perché comunque, e se devo sceglierti un album, allora De Gregori, ti dico la verità, l'hanno tutti stroncato, ma a me l'ultimo che fa, il penultimo forse, non mi ricordo, Per Brevità Chiamato Artista, secondo me è bellissimo. Lasciamo perdere Rimmel, queste cose qua, perché comunque sono classico. Cose che ma non puoi rifare, certo, cioè, certo. Per Brevità Chiamato Artista è bellissimo, e quando l'ho visto in offerta allo Shan a 5,99 euro, è venuta tristezza, perché ho detto non è possibile, cioè è bellissimo, è quasi ammazzare la musica a volte, no? Sì, beh, si regala in quel caso, va bene, sì. Che molte volte il CD costa un patrimonio. Beh, quello sì, è vero, sì. Questo è vero. Però in certe altre situazioni, come c'è rispetto, come diceva, sì. Zucchero. Come l'hai scritta tu adesso, come l'hai detta tu, insomma, sì, c'è proprio il modo contrario di acquistare poi la musica. Ti dico, guarda, Guccini, a me piaceva molto Via Paolo Fabbri. 43. Con la velenata. Tutte le parole. Quella lì. No, soprattutto perché se tu pensi a quella canzone lì fatta in quel periodo lì, era veramente. Certo. Tirarsi veramente sui piedi, sì. Altro che un accesso. E soprattutto con quell'R moscia caratteristica. Sì, sì, no, se io avessi poi visto, sì, tutto, sì, questo. Tutto il resto che può essere anche, no, insomma. Sì, sì. È fantastico, quello, molte altre cose di Guccini. Guarda, della musica italiana ti metterei veramente dentro. Mi fermo un attimo qua. Neil Young, ecco. Neil Young, Rust Never Sleeps, quell'album lì è stato non lo dico io, è stato proprio quello che poi ha dato l'al grunge, lui era già così. Quindi sei rockettaro al 100% per Neil Young. Neil Young fa impazzire, l'ho visto dal vivo. Quante volte l'hai visto? L'ho visto una volta, l'Arcimboldi che ha fatto con la band, che band, con tutte e due ha fatto sì, quello che è rimasto dei Crazy Horse, esattamente. e poi ha fatto in acustico e insomma vabbè. A proposito di acustico, sì. Emanuele, è ancora la chitarra? Sì, ancora. Perfetto. E allora cosa possiamo ascoltare ancora? Per so che tu dicevi c'era un qualcosa che doveva entrare nel disco che dopo non è entrato, ma perché entrerà da qualche altra parte. Ma ovvero questo qua è un brano spero di ricordarmelo anche. Sì, sì. Si chiamava Tutto Passa, si chiama Tutto Passa, non l'abbiamo messo per molte ragioni, per diversi motivi. Dovevamo finire di arrangiare gli strumenti, non siamo, abbiamo preferito lasciarla. Ora ve la accenno un attimo, magari non... Sì. Anche perché sono un po' a digiuno, vi dico la verità, sono un po' a digiuno di testi e cose, però il motivo dovrei ricordare. Caso mai andiamo avanti con la la la la la, ecco. Okay. D'accordo. Sognare ancora un po', balliamo questo tango come fosse al cinema, facciamo pure finta che dorma la città, balliamo fino in fondo finché affondo l'anima, teniamo bene il tempo perché il tempo passa e porta via ogni lucida follia, e sembra come se sia tutto inutile, ma guardami, toccami, in fondo spetta a noi provare anche a sorridere ogni volta che tutto è in bilico. Ti va di sognare ancora un po', balliamo questo tango come fosse al cinema, facciamo pure finta che dorma la città, balliamo finché affondo l'anima, teniamo bene il tempo perché il tempo passa. Teniamo bene il tempo perché il tempo passa e porta via ogni lucida follia, poi tutto passa, tutto passa, guardami. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. ci siamo ascoltati questa bella canzone. Allora ci aveva giocato un brutto scherzo, no? Diceva: ma non me la ricordo. No, cioè, vedi, cose spontanee. No, invece, veramente la spontaneità del parola chiama parola, no? In questo caso ci ha fatto ascoltare questa. Come si intitola? Questa si chiama Tutto Passa. Tutto passa. Ecco, quindi diciamo che questa non è stata inserita all'interno del tuo CD Inquietamente, formato di 9 tracce, ma farà parte di un prossimo tuo lavoro. Presumo proprio. Devi dirci di sì. Assolutamente. Vabbè, lì è già quasi pronta, insomma. E intanto chi vorrà ascoltarsi questo pezzo potrà entrare all'interno dei nostri archivi sonori tramite il nostro portale internet bluradioveneto.it e cliccare dove tra qualche giorno sarà scritto scarica la trasmissione e potrà riascoltarsi questo pezzo nell'attesa che sia messa a CD, che sia pubblicata in maniera ufficiale. Quindi Emanuele De Francesco, abbiamo ancora una traccia da ascoltare da CD prima di passare ai saluti. In questo caso vogliamo già parlare di la canzone che si intitola Come. Ma come volete, nel senso, se volete. Ah, se vuoi farcela dal vivo? Sì. Potrebbe, no, pensavo buonanotte più che altro, perché era più poi come volete voi. Io sono a disposizione. Puoi accennare questa qua? Ci puoi accennare un po' il come, e poi magari torniamo per i saluti, così ci fai il buonanotte in tutti i sensi. Certamente. Benissimo. È stato come giocare a scacchi, indebitarsi col proprio destino, salutare e dimenticarsi con una stretta di mano. È stato come cadere indietro, senza voltarsi nemmeno. È stato come ricominciare, senza sapere come, recitare versi a memoria, masticare parole, e le parole diventano pane. Va come deve. E adesso come corre il vento e le navi sono lontano, il loro fischio sembra fumo che si perde leggero, senza nessuno che guardi in alto, in alto, e che ti chieda come stiamo. Abbiamo ascoltato questo estratto molto delicato di Come, che è anche la canzone che dà inizio, sì, dà avvio al disco Inquietamente. Ed è volutamente la prima traccia perché racchiude un po' adesso ho accennato questa storia del tempo. Questa è una canzone che parla proprio del passare del tempo e non a caso poi alla fine chiude con buonanotte. Quindi si inizia. Proprio inizia. Questa è stata volutamente messa lì. Non è stata una scaletta a caso, è stata molto ponderata. Poi io e Lele sulle scalette veramente sono due. Sì, perché si deve dettare il tempo a chi ascolta la musica. La scaletta io non pensavo, cioè è stata veramente una cosa pazzesca. Sì, perché poi, alle volte non mi capita di far così fatica, stavolta è stato proprio veramente un parto allucinante, ragazzi. Però no, sono contentissimo. Abbiamo riuscito. Non era una cosa facile da sistemare, invece poi mi piace come è venuto così, insomma. Benissimo, piace anche a noi e spero sia piaciuto anche ai nostri ascoltatori, che ti contatteranno poi per avere maggiori delucidazioni sull'argomento musica di Emanuele De Francesco e naturalmente per entrare in possesso del tuo CD Inquietamente. Ecco, siate anche un po' curiosi, carissimi ascoltatori, andate a vedervi anche quella che è la copertina del disco, magari tramite il Google nella parte di immagini, scrivendo Emanuele De Francesco e Inquietamente quietamente le tre parole staccate, vi arriva anche la bella copertina che Emanuele ha pensato per voi, anzi un artista in particolare, sì, ha pensato per Emanuele. Sì. Benissimo, allora che dire, Emanuele, grazie di essere stato con noi questa serata, davvero piacevole, grazie, nell'ascolto di questa inquietamente che ci ha resi tranquilli ma consapevoli. Spero non inquieti. Non inquieti, assolutamente. Assolutamente no. E allora, buon rientro, soprattutto grazie, buona musica. Noi adesso ti lasciamo i microfoni aperti per la tua ultima canzone, la tua buonanotte nel tuo modo di fare musica. Okay. Allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, lasciamo i microfoni aperti ad Emanuele De Francesco, grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. A presto, ciao. Che silenzio che c'è stasera, sembra che questa notte sia soltanto mia. Posso sentire le stelle che mi guardano, a volte danno luce immobile. Se chiudo gli occhi sembra che mi parlano, e chissà se sognano. E io vorrei quante cose che vorrei, a dire il vero ho perso il conto, sai, di ogni notte che mi sveglio e poi sorrido a tutti i sogni miei. E in un momento di debolezza riesco a sentire il cuore quasi farmi male. E in un momento di sicurezza sento come le parole nascere da sole. Allora chiudo gli occhi, mi volto e dico a tutti buonanotte. Chissà perché non ho voglia di dormire, mi piace stare sveglio così, per ascoltare e scoprire ogni piccolo rumore che si nasconde nell'oscurità di questa notte che si illumina e vuol sapere di me. Un aereo che passa e all'improvviso sembra che qualcuno guardi da lassù, ed io sorrido, abbasso gli occhi e poi ritorno a tutti i miei eroi. E in un momento di debolezza riesco a sentire il cuore quasi farmi male. E in un momento di sicurezza sento come le parole nascere da sole. Allora chiudo gli occhi, mi volto e dico a tutti buonanotte. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.